Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Buona giornata, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione nella quale, come sempre, cerchiamo di farvi capire come la politica sta cambiando con la rete, come voi potete cambiare la politica con la rete. Questa settimana andremo su temi di attualità. In realtà lo faremo anche la prossima, però vi segnalo già la puntata della settimana prossima, perché è una puntata che stiamo preparando che è particolare, perché ci occuperemo di una guida al voto, come andare a vedere che cosa fanno i politici che vedete quotidianamente in televisione o che vi troverete ad andare a votare, cosa fanno nella realtà, se mantengono le promesse oppure no. Ci sono degli strumenti in rete che permettono di fare questo, ne parleremo la settimana prossima. Questa settimana invece parleremo di Mario Monti, qual è la percezione, il sentimento sulla rete in merito all'attuale presidente del Consiglio, che come sapete non ha ancora sciolto la riserva, si candida, non si candida, insomma pare che alla fine non si candidi. E parleremo dell'altro uomo di questi giorni, di queste giornate, ossia Silvio Berlusconi, perché in questa settimana si sono diffuse indiscrezioni, insomma ha assunto il guru digitale di Obama per farsi aiutare in campagna elettorale. Andremo a verificare se questo è vero. Prima di tutto, però, come sempre, si apre la nostra trasmissione con il punto di Stefano Folli. A tra poco. Italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Come sempre, in questa seconda parte della trasmissione facciamo il punto politico della settimana, vediamo insomma di mettere qualche punto, per quanto possibile, viste le oscillazioni e le incertezze che stiamo vivendo e che si stanno vivendo, le dichiarazioni contrastanti ancora una volta di Silvio Berlusconi, l'incertezza sul futuro di Mario Monti. Dunque facciamo il punto con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno. Da cosa vogliamo iniziare? Insomma, mi sembra chiaro che ancora una volta, così come era successo la scorsa settimana, insomma, nel nostro appuntamento se n'era parlato, il PD è un po' fuori dalla scena in questo momento e ci sono solo due personaggi al centro della scena, che sono naturalmente Mario Monti e Silvio Berlusconi. Da chi vuoi partire? Partiamo da Monti, visto che si è appena dimesso e quindi ha concluso la sua esperienza di presidente tecnico. Ha detto non è colpa dei Maia se io finisco oggi. Diciamo che in effetti la parabola di Monti è completa, ha cominciato come tecnico in un momento di emergenza e finisce come un esponente politico, però nel senso alto del termine, un uomo che vuole parlare al paese e vuole indicare la via dell'Europa come unica salvezza per la nostra emergenza che non è ancora davvero conclusa. Questo sì, però devo dire che la chiave con la quale Monti vorrà fare tutto questo non è ancora chiarissima, insomma non si è capito bene che intenzioni ha il professore, perché forse scendere davvero in politica o scendere in campo, come si dice, potrebbe essere un'opzione in realtà piuttosto dannosa per lui, o no? Beh, diciamo che Monti si è mosso su un filo di ambiguità in queste settimane, perché era in sé abbastanza equivoca e ambigua la posizione di un Presidente del Consiglio che è stato chiamato direttamente dal Presidente della Repubblica e che non è passato attraverso le elezioni. La cosa era piuttosto delicata, ha lasciato anche qualche strascico di tipo istituzionale, però alla fine io credo che questo sbocco era abbastanza inevitabile. Qual è lo sbocco, tu mi chiedi giustamente? Ma lo sbocco è che Monti annuncerà di essere disponibile a continuare la sua opera e lo farà mandando un manifesto, leggendo diciamo, una, un insieme di obiettivi che sono quelli che definiscono il risanamento del paese, un programma di riforme. Lui dice, si definisce un moderato, però poi aggiunge i moderati non sono personaggi scialbi, no? Personaggi grigi, sono anzi coloro che possono in un certo contesto storico volere le riforme più incisive. Io penso che cercherà di fare questo. Naturalmente si metterà a disposizione di quelle forze che sul piano elettorale vorranno sostenerlo. Conta, mi sembra di capire, un'ipotesi di questo genere, conta sul fatto che, come in realtà poi è probabile, dal voto di febbraio esca un Parlamento molto frammentato, in effetti, perché insomma, se stiamo a guardare le percentuali come sono adesso, con, per quello che valgono i sondaggi naturalmente, Stefano, però potrebbe contare un'eventuale, chiamiamola lista Monti, una lista di sostegno forte all'attuale Presidente del Consiglio, al massimo ci sembra di capire intorno a un 20%, quindi quello immagino su cui punta un'ipotesi di questo genere è un Parlamento ingovernabile che deve scegliere un nuovo governo di larga coalizione più o meno. Vabbè, adesso questi sono scenari, sì, bisognerà farli, forse oggi è ancora un po' presto, no? Perché i scenari, parlo di un Partito Democratico maggioritario effettivamente, e poi c'è Monti che può aspirare a questa percentuale che tu dici, c'è Berlusconi che non si dà per vinto, c'è Grillo naturalmente col suo movimento antipolitico che adesso è andato un po' nell'ombra, ma che è chiaro, è sempre lì e è in grado di prendere molti voti. Ma io soprattutto dico una cosa, non è che l'ingresso in campo di Monti toglie spazio alle altre forze politiche, se sono abbastanza credibili da mandare avanti un messaggio serio. E il messaggio serio è che l'Italia deve riprendere la sua crescita economica, deve non morire soffocata di tasse, e le imprese devono poter immaginare un quadro generale che le sostiene e che non è invece un ulteriore vincolo per il loro sviluppo. Insomma, c'è molto da fare per un sistema politico che è stato per troppo tempo inerte e indifferente. L'ingresso in campo di Monti io lo leggo come una scossa che vale anche per gli altri, vale per Bersani con il suo centrosinistra che ha bisogno di ammodernarsi un po' anche nel modo di parlare agli italiani, e naturalmente un centrodestra che ha bisogno di cambiare registro dopo quello che ci ha fatto vedere negli ultimi anni. Stefano, una scossa simile per certi versi opposta a quella di Grillo? Che dici? Sì, anche se naturalmente io penso che Monti, il fenomeno Monti, poi vedremo quanto vale elettoralmente, però in qualche modo discende da un giudizio di condanna verso il sistema politico tradizionale che è venuto dall'opinione pubblica, quindi non è Grillo evidentemente, è tutt'altro, è ragione, è opposto anche, però nasce dalla stessa disillusione suscitata dal sostanziale fallimento del vecchio sistema. Una sorta di radice comune. Ti porterei adesso, prima di andare ai partiti, per così dire, tradizionali, insomma, quelli che abbiamo visto fino ad oggi, ossia il PDL con le nuove evoluzioni dell'ex presidente del Consiglio che insomma ieri ha detto che non sostiene più Monti, che si candida lui a questo, quello che ha chiamato Rassemblement dei moderati. Ti porterei su quello che è stato presentato proprio ieri, che è questo movimento con un'ampia componente di magistrati tra i leader, per così dire, insomma, nel senso che c'è il sindaco di Napoli De Magistris, Di Pietro, e ieri Ingroia, che in realtà non ha ancora sciolto la riserva. Secondo te è qualcosa che può strappare voti a Grillo in questo caso, immagino, o no? Beh, certamente ci provano, mi sembra, è chiaro, cioè, nasce da una da un forte distinguo rispetto a quella che fino a ieri si poteva dire era la sinistra radicale di Vendola, no? Che è stato in qualche modo sconfessato da questi personaggi perché Vendola ha fatto l'accordo con Bersani, e poi naturalmente sì, è concorrenziale con Grillo e cerca di parlare un linguaggio fortemente giustizialista che non sempre Grillo usa. Quindi vedremo, è il movimento cosiddetto arancione, non solo sì. Valutarlo in questo momento quanto possa pesare sul piano elettorale, perché è molto frastagliato, e abbiamo detto lo stesso candidato premier mi sembra più incerto di Monti, ecco. quindi vedremo nelle prossime ore. E forse più incerto persino di Berlusconi, del quale, Stefano, a tutt'oggi non abbiamo ancora capito che cosa voglia fare, insomma. Per ora a Roma si dice, poi la battuta l'avete letta dappertutto, insomma, quindi spero veramente di non attirarmi strali per questo. Insomma, sembra che fino al momento la butti un po' in caciara, ecco, qualcosa nei sondaggi si vede di recupero del PDL, però al momento è questo. La butto in cacciara, ma sai, lì dopo aver egemonizzato per tantissimi anni l'area cosiddetta moderata, il centrodestra, oggi Berlusconi si vede scalzato, perché Monti gli è andato a occupare quella che davvero si può chiamare un'area moderata, ma l'ha fatto con l'appoggio dell'Europa, dell'America, delle varie cancellerie, della Chiesa Cattolica. Il povero Berlusconi si trova veramente spinto ai margini di tutto questo, no? L'idea di sarò io federali moderati oggi fa obiettivamente, insomma, muove un po' al sorriso. È chiaro che Berlusconi ha un solo spazio, quello di essere un personaggio che tende a radicalizzare a destra il suo messaggio, a fare un discorso fortemente antieuropeo, antitedesco. Ma quando arriva addirittura a denunciare pubblicamente la sua delusione verso la Chiesa, che non lo tratta più dopo tutto quello che lui ha fatto per la Chiesa, o a lamentarsi del fatto che non ha ricevuto nemmeno una telefonata da Monti, beh, questo dà il senso della grande difficoltà di Berlusconi, il che non significa che non possa raccogliere un certo consenso elettorale residuale, un discreto consenso, e non credo che sarà un grande punteggio, ma certamente sul piano, diciamo, della possibilità di contare nella grande politica, penso che Monti si avvii a prendere il suo posto all'interno di quello che si può definire un centrodestra allargato. Comunque sia, per chiudere, toccando l'altro grande partito, il Partito Democratico, comunque sia, legislatura finita, ieri un bellissimo discorso, va detto, di Walter Veltroni, il suo ultimo discorso da parlamentare. È vero, bello. Un PD che, come dire, si avvia al ricambio, anche quello di ieri ne è un segno, insomma, le primarie parlamentari. Però, come dire, con una struttura di idee e di pensiero che per certi aspetti rimane ancora un po' vecchiotta, forse, Stefano. Sì, è vero, l'impianto non è, come dire, è abbastanza antico ancora, però non c'è dubbio che c'è stato un tentativo parziale di rinnovare l'immagine. Le primarie, l'abbandono di alcuni personaggi importanti che hanno fatto la storia del partito in questi anni, un tentativo generale, insomma, di rinnovare anche il linguaggio. Il fatto che questo Renzi abbia fatto la sua battaglia nel PD, non abbia vinto, però abbia dimostrato qualche cosa di abbastanza concreto e di sapere anche trovare il consenso dell'opinione pubblica. E tutto questo, se Bersani è astuto, e penso che sia abbastanza astuto, servirà a definire un identikit del PD che dovrà proseguire inevitabilmente sulla via di un certo rinnovamento, negli uomini, nei personaggi, ma anche nelle idee e nel modo di presentarle agli italiani. Grazie anche per questa settimana a Stefano Folli. Grazie a te. Ciao Stefano, noi ci risentiamo naturalmente la settimana prossima in Voto Antonio alle 9. Italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Come già dicevamo in apertura di trasmissione, oggi ci occupiamo di tutti i principali elementi che continuano ad essere sotto i riflettori nell'azione politica quotidiana di queste ore. La settimana scorsa, con i dati di Riccardo Puglisi siamo andati a vedere i tweet che menzionavano Silvio Berlusconi, come si parlava in rete di Silvio Berlusconi. Su Berlusconi torneremo più avanti per capire, come si diceva già all'inizio, qual è la sua strategia sul web. Oggi parliamo dell'altro, ossia dell'attuale Presidente del Consiglio, Mario Monti. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. I dati, lo ricordiamo, elaborati col software Opinion Politica di R2M Solutions, che cosa ci dicono, Riccardo? Allora, ci dicono questo, ci dicono qualcosa di simile a quello che avevamo visto la settimana scorsa con Berlusconi, ovvero sì, c'è un numero di tweet mondiali all'incirca su Monti che è 10.000 al giorno, quelli italiani sono la metà, quindi diciamo i due protagonisti in questo periodo hanno un eco che non è soltanto italiana ma è anche globale. I numeri sono sostanzialmente la metà rispetto a quelli di Berlusconi, perché Berlusconi arrivava a 10.000 tweet al giorno, qua siamo intorno ai 5.000, la domenica 5.000, poi c'è un po' un calo, si arriva verso 3.000 e poi adesso tra giovedì e venerdì ritorniamo a 5.000. Ancora una volta non c'è tanto dialogo, perché sono all'incirca solo il 10% sono dialogo tra interlocutori e ci sono abbastanza retweet. In questa settimana il tweet che è girato di più, lo ricordiamo anche perché insomma, lo ritroveremo tra poco, è un tweet di Federico Taddia che ritroveremo alle 10 del mattino nell'altra Europa. I Maia, se si candida Monti facciamo un passo indietro, quindi siamo sul filo della battuta, ma non c'è solamente questo, no Riccardo? Assolutamente sì, c'è una cosa da notarsi, che nei tweet stranieri non ci sono battute, sono notizie, sono gli italiani che hanno dimestichezza con Monti e quindi ci sono le battute, ma ci sono le notizie e oserei dire che c'è un ciclo per cui ogni notizia dura all'incirca due giorni. Per esempio con Domenica si parla molto di Monti con riferimento a Berlusconi, con riferimento alla sua partecipazione alla trasmissione della Barbara D'Urso e ciò va avanti fino a lunedì. Poi a martedì abbiamo l'episodio di Pannella, e quindi viene trattato appunto per il fatto che Monti è andato a fare visita al leader radicale e la cosa va avanti ancora a mercoledì. Quindi abbiamo questa specie di flusso di notizie che dura due giorni con quella notizia nuova che si innesta il giorno successivo sopra la precedente. Una sorta di effetto trascinamento. Ma come diciamo sempre, ci interessano i numeri solamente perché poi ci consentono... Certo. Per così dire, di raccontare una storia. E come sempre andiamo a vedere anche quali parole sono correlate a questi tweet. Che cosa emerge dai tweet su Monti? Perché su Berlusconi, perdonami Riccardo, avevamo visto insomma molte battute, molte parole negative anche correlate al nome di Berlusconi, almeno nei tweet. Su Monti che cosa vediamo? Chiaramente non mancano le battute negative sono in larga parte concentrate nella giornata di giovedì a motivo dell'incontro con Marchionne. Questo sicuramente ha creato una serie di tweet negativi relativi al fatto che in questo modo diciamo, Monti si colloca dal punto di vista ideologico, in una dialettica capitale lavoro. Ci sono molte cose, non tante cose di policy, ma molte cose di politics, questa è la cosa che emerge, quindi compaiono molti nomi, governo, candidatura, Napolitano, Berlusconi, Premier, compaiono tutti elementi relativi appunto al destino non ancora chiaro di Monti, compare abbastanza alto Berlusconi, compare un po' più basso Bersani, questa settimana devo dire che i due protagonisti, delle ultime due settimane i due protagonisti sono stati per l'appunto Berlusconi e Monti, le parole di policy, compare IMU abbastanza spesso, mentre invece spread sostanzialmente è declina, anche perché il declino dello spread è stato abbastanza graduale, quindi non ha fatto notizia. E l'altro elemento di cui si discute è la collocazione politica di Monti dal punto di vista ideologico, quindi centro, moderati, centristi compaiono e l'elemento negativo sta nel menzionare diciamo politici della Prima Repubblica. Ecco, questo è un elemento. Chiaramente, devo dire, la correlazione con Berlusconi è molto forte, cioè nei tweet su Monti appare come prima parola Berlusconi molto spesso, questo probabilmente dipende anche dal fatto che Berlusconi parla di Monti e quindi circola come notizia, suppongo, insomma. Esattamente. Mentre invece non Bersani compare praticamente tutti i giorni, compare sotto, quindi c'è questo elemento, e Napolitano diciamo in mezzo, ecco, come altro attore importante, cruciale in questa fase. Grazie anche per questa settimana Riccardo Puglisi, buona giornata Riccardo. Buona giornata a voi, auguri. Abbiamo sentito da Riccardo Puglisi quali sono i dati che riguardano Mario Monti, vogliamo parlare adesso invece di altri dati che riguardano, se vogliamo dal lato opposto politicamente, il Movimento 5 Stelle. È uscita in settimana una bella ricerca sulle parlamentarie, delle quali abbiamo già trattato, come ricorderete, insomma, le primarie di Grillo, realizzato dall'Istituto Cattaneo. Ci ha lavorato tra gli altri Cristian Vaccari, che è docente di comunicazione politica all'Università di Bologna, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Cristian Vaccari, che trovate, se volete, anche su Twitter, 25 lettori col 25 a numero. Vediamo di fare un punto, a proposito di numeri, sui dati che emergono da questa ricerca che avete fatto. Partirei dall'età, che forse è una delle cose che colpisce di più, ma che probabilmente ci si poteva aspettare. Sono giovani questi del Movimento 5 Stelle. Sono decisamente giovani se li confrontiamo soprattutto ai parlamentari del Parlamento che sta per concludere i suoi lavori. L'età media è di 42 anni, l'età media dei capilista è ancora più bassa, è di 36 anni. Per farci un'idea, il 40% di questi candidati ha meno di 39 anni e solo il 4% ha più di 60 anni. Quindi un elemento notevole, ma ripeto che probabilmente in parte ci si poteva anche aspettare, no? Vista la stessa struttura del movimento, no? Beh, sicuramente si tratta di un movimento che è stato aperto quasi per definizione a chi non aveva mai fatto politica e a chi voleva, diciamo, affacciarsi alla politica per la prima volta. Questi dati senz'altro più che altro confermano qualcosa che ci potevamo aspettare. Bisogna anche dire che noi conosciamo il nome e quindi il profilo dei 31 capilista, ma non conosciamo ancora i profili di quelli che saranno in cima alle liste e quindi che verosimilmente poi saranno eletti in Parlamento. Naturalmente. Dimensioni di queste parlamentarie, di queste primarie del Movimento 5 Stelle, perché tanto se ne è parlato di questo, in realtà molta chiarezza sui numeri non è mai arrivata, alla fine forse perché poca chiarezza c'è stata da parte di Grillo e c'è chi dice anche di Casaleggio naturalmente. Qualche numero? I numeri noi veramente abbiamo dovuto cercarli con lumicino e speriamo che prima o poi saranno disponibili i risultati di tutti gli eletti, quindi quanti voti ha preso ciascuno di questi signori. Diversi giorni dopo, più di due settimane dopo della conclusione di queste elezioni, Grillo ha pubblicato un post in cui ha precisato che hanno votato 20.252 iscritti su 31.612 aventi diritto e che i voti, siccome ciascuno poteva esprimere tre voti, sono stati espressi circa 60.000 voti. Ecco, se pensiamo che i candidati erano quasi 1.500, è plausibile che anche per avere un buon posto in lista non siano stati necessari molti voti. Non è chiaro chi abbia potuto votare e quindi poi chi abbia effettivamente votato. Quindi, come già si accennava, una dimensione tutto sommato limitata. Interazione e utilizzo dei social network da parte di costoro. Dunque, noi abbiamo, per capire come abbiamo fatto questa ricerca, sulla sezione del sito di Grillo dedicata al Movimento 5 Stelle c'era un portale da cui si potevano vedere i profili di ciascuno dei candidati. E ciascun candidato poteva inserire una sua foto, alcune informazioni personali, i link ai profili sui social media principali e un video su YouTube di presentazione della sua candidatura. Quindi noi ci siamo basati su queste informazioni, sulla base dell'idea che, appunto, se qualcuno vuole farsi vedere sui social media durante questa campagna elettorale, dice che ha un profilo su questi social media. Allora, in base a questa rilevazione, noi abbiamo visto che il 73% dei candidati aveva un profilo Facebook, il 40% ha pubblicato un video su YouTube, il 39% aveva un profilo su Twitter e il 28% su LinkedIn, che è un social network professionale che dimostra comunque che una certa percentuale di queste persone ha una vita professionale, diciamo, abbastanza attiva. Però bisogna dire che poi il seguito che questi candidati avevano sui social media era piuttosto basso. La media su Facebook è di 648 amici o mi piace e su Twitter è di appena 50 follower. C'erano moltissimi profili che avevano uno o due follower e anche uno o due tweet, quindi che probabilmente erano stati aperti quasi solo in occasione di questa piccola campagna elettorale online. e anche su YouTube la media delle visualizzazioni di questi video era di 800 visualizzazioni. Voi scrivete nella vostra ricerca, in sostanza, dal lato di questi numeri, che a questo punto è un po' un luogo comune che questi del Movimento 5 Stelle siano un'avanguardia digitale. Lo sono forse nelle modalità della decisione e del confronto interno, i famosi meet-up, la scelta per alcune parti del Movimento, pensiamo al Movimento 5 Stelle Sicilia, ma probabilmente anche quello che avverrà per lo stesso Movimento 5 Stelle Nazionale, la scelta di Liquid Feedback per decidere il programma. Ma al di là di questo, chi è dentro il Movimento è in realtà un normale cittadino della rete, così possiamo chiamarlo? Sì, noi abbiamo titolato Sconosciuti alla ribalta il nostro comunicato stampa, la nostra ricerca, perché effettivamente questo è quello che è emerso. Bisogna dire che i 31 eletti come capilista hanno dei numeri un pochino più significativi, circa 1200 amici su Facebook, ma solo 124 follower su Twitter, quindi molti meno di quelli che hanno tantissime persone che ci seguono. Ma in generale sì, sicuramente non si tratta, diciamo, qualche settimana fa su molti quotidiani sono apparse ricostruzioni abbastanza orwelliane di un Movimento 5 Stelle che si alimenta di questi grandi influencer che riescono a indirizzare le conversazioni sulla rete e quindi a fare opinione. Diciamo che se ci sono questi persuasori occulti in rete, non li abbiamo trovati tra i candidati a queste parlamentari, che invece sono quasi sempre persone normali. Un elemento su cui magari invece si può individuare una specificità è l'uso di meetup, cioè qui si vede effettivamente che il 42% dei candidati avevano un profilo su meetup e quelli che hanno vinto e sono stati eletti come capilista erano addirittura presenti nel 71% dei casi, la metà dei quali tra l'altro con ruoli di responsabilità, quindi leader di queste organizzazioni. Ecco qui che, diciamo, questo è un tratto genetico del Movimento che è nato sui meetup, direi che da questi dati si vede che questo tratto è ancora abbastanza vivo. Infine, ultima domanda, sui capilista spesso hanno un ruolo organizzativo già all'interno del Movimento, insomma. Sì, noi abbiamo visto che la metà, quindi circa un terzo fra tutti di quelli dei candidati e la metà di quelli che avevano un profilo su meetup avevano un ruolo. Meetup consente a ogni gruppo degli organizzatori o dei co-organizzatori o degli assistenti organizzatori, e queste persone effettivamente avevano un ruolo qui dentro. Quindi è probabile che queste elezioni in parte abbiano premiato persone, come è normale che sia, che avevano già una riconoscibilità all'interno del Movimento, e però anche qui la riconoscibilità è legata a meetup, ma è legata poi al fatto che tramite meetup si organizzano delle cose sul territorio, e quindi anche qui si tratta di una comunicazione che probabilmente è andata ben oltre la semplice comunicazione online. Grazie a Cristian Vaccari, docente di comunicazione politica all'Università di Bologna, che ci ha illustrato questo studio realizzato dall'Istituto Cattaneo e al quale ha partecipato. Lo trovate, se volete, vi metteremo il link sul nostro sito allo studio. Invece Cristian Vaccari, se volete, lo trovate anche su Twitter, è 25 lettori col 25 al numero. Grazie e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. E in quest'ultima parte della trasmissione parliamo di un partito che forse nell'ultimo periodo abbiamo un po' trascurato. Insomma, ci sono state le primarie, ci sono state le parlamentarie di Grillo. Adesso, delle quali abbiamo appena parlato, tra l'altro, adesso ci occupiamo del PDL e della sua strategia digitale, perché se ne è fatto un gran parlare in questa settimana. Antonio Palmieri, che è responsabile internet del PDL ed è anche un deputato. Palmieri, buongiorno. Buongiorno Spezia e auguri a lei e a tutti gli ascoltatori. Auguri a lei. Allora, ci spiega che cos'è questa storia di Slaby? Io lo dico agli ascoltatori, è circolata la voce in settimana che Silvio Berlusconi avesse preso per una consulenza Slaby, che è, insomma, il guru digitale, uno dei guru digitali di Obama. Allora, ce la spiega questa cosa di Slaby? Guardi, Palmieri. Siamo le solite bufale, qui in Italia c'è questo intensivo allevamento di bufale online e offline. Semplicemente Sleby è venuto come noto in Italia, ha fatto un piccolo tour tra Milano e Roma, è venuto alla Camera in un incontro pubblico al quale io ho assistito, dopodiché ero tra coloro che hanno potuto cenare con lui, a cena abbiamo scambiato alcune battute segnatamente sulle differenze tra gli Stati Uniti e l'Italia per quanto riguarda la politica online e altre cose relative alla comunicazione. E non so come mai un giornale ha scritto che sarebbe stato assoldato da Berlusconi, lui ha smentito nel suo tweet, io ho smentito nel mio tweet qualche giorno fa e tutto si è risolto così. Noi tradizionalmente facciamo tutto in casa, cioè tutte le nostre campagne elettorali globalmente intese le facciamo noi, per cui insomma ha avuto più pubblicità Sleby in questi giorni e noi anche, diciamo così, di conseguenza, però non c'è niente di vero. Senti una cosa, allora veniamo però... di vero c'è il nostro impegno nella campagna online. Ecco, appunto, veniamo a quello che lei ci dice che fate in casa. Che cosa state facendo in casa? Che strategia c'è, posto che, glielo dico francamente, quella politica dell'ex Presidente del Consiglio ancora non l'abbiamo capita benissimo, insomma. Però, detto ciò, c'è una strategia online per avvicinarsi alle elezioni. E qual è e in cosa consiste? Beh, diciamo che per ora la nostra campagna elettorale si sviluppa su quattro assi. C'è questa presenza sui media tradizionali del Presidente Berlusconi, quindi col mezzo più tradizionale, se vogliamo, la televisione, alla quale si accompagna la nostra azione online, e poi sugli altri due assi sono uno riguarda la memoria, uno riguarda il futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire memoria, ricordare le cose fatte nei nostri anni di governo, perché ovviamente i nostri avversari li dipingono come anni inutili e peggio dannosi per il paese, e quindi futuro, dire la prospettiva, quindi iniziare a declinare il programma per il 2013. Noi online seguiamo anche noi questi quattro assi, nel senso che ovviamente riprendiamo il meglio delle presenze e delle partecipazioni televisive di Berlusconi, integralmente, cioè usando i video, e poi riutilizzandoli, ricucinandoli per così dire, in formato di infografica piuttosto che di brevi post, e quindi sottomettendoli al commento, al giudizio, al dialogo con le persone che ci scrivono. Ecco Palmieri, questo è quello che è successo per esempio in settimana, probabilmente lei immaginava che gliel'avrei chiesto, quello che dovrebbe essere l'esercizio di memoria principale su quello che sostenete che abbia fatto il PDL, che abbia fatto il governo di Silvio Berlusconi in questi anni, con l'hashtag e il sito Lo sapevi che Silvio. Con questo Lo sapevi che Silvio naturalmente si è scatenato di tutto in rete, per esempio ne leggo qualcuno, lo sapevi che Silvio ha fatto certificare dal Parlamento italiano che Ruby era la nipote di Mubarak, lo sapevi che Silvio non era la soluzione eppure quella volta lo hai votato lo stesso, lo sapevi che Silvio è l'emblema della famiglia, un divorzio alle spalle, un in corso ed è fidanzato con una che ha 50 anni meno di lui, insomma in realtà l'idea è che questo Lo sapevi che Silvio sia stato un boomerang è abbastanza forte. Quello che viene definito un social media fail. Ma guardi, io ovviamente non. Le opinioni sono tutte da rispettare. Diciamo che noi, lo sapevi che Silvio, peraltro, è un esempio splendido di quello che noi stiamo facendo, che è quello: noi abbiamo arruolato, tra molte virgolette, circa 2.000 volontari online, cioè persone che hanno messo a disposizione i loro spazi internet. Pagine o profili Facebook, account Twitter, blog, per fare la campagna online con noi. Uno di questi è Roberto Castinelli, che è un nostro valente deputato, e lui ha messo in campo Lo sapevi che Silvio, e io l'ho accolto con grande piacere nella nostra presenza online nuova sulla memoria, che è anche fatta dal sito 9anni.governoberlusconi.it, dove con estrema sintesi ricordiamo le cose principali fatte, che non sono nostre opinioni, sono realizzazioni. Allora, da questo punto di vista è evidente che ogni azione scatena una reazione, ma siccome il punto è, devo dire, noi siamo stati quelli che per primi, ricordo, non a lei ma a chi ci ascolta, nel 2001 alla campagna dei manifesti taroccati online che prendeva in giro la nostra campagna di affissione sui muri, abbiamo replicato ospitando il concorso dei manifesti truccati online nel nostro sito e facendone, se vuoi, la prima operazione di user generated content, se vogliamo, perché è stata la prima cosa, che la prima volta questo avveniva in Italia. E questo, sì, di questo veniva dato, no, devo dire la verità, di questo veniva dato atto, insomma, sicuramente. Beh, era inevitabile questo, ma il punto qual è? È evidente che noi non parliamo alle persone che hanno fatto quei tweet che lei mi ha appena letto, perché l'obiettivo non è mica convincere quelli che sono contro di noi, che evidentemente lo sono e lo rimarranno. L'obiettivo della campagna è riparlare ai nostri elettori, cioè a coloro i quali ci hanno già votato. E il primo presupposto è ricordare le cose che abbiamo fatto. Vi ricordo l'ultima e chiarissimo ragionamento. Noi abbiamo sempre fatto, quando siamo arrivati a un'elezione, essendo al governo, quelle del 2006, anche quelle europee del 2009, regionale del 2010, abbiamo, come primo punto della campagna elettorale, abbiamo sempre ricordato le cose che abbiamo fatto, perché è il presupposto per poter chiedere nuovamente la fiducia. Mi limito a osservare sommessamente che quando la sinistra arriva alle elezioni stando al governo, normalmente non cita mai le cose che ha fatto quando al governo. Questo lo dico non per fare la solita polemica stantia, sì, noi loro, quanto per un puro dato di verità e di, come posso dire, azione comunicativa. Sì, quindi una sorta di suggerimento al centro-sinistra. Chiudiamo, Palmieri, e le chiedo di essere molto breve su quello che forse è, voi considerate la parte più simile a quello che è stata la campagna elettorale americana, ossia la mobilitazione di volontari anche tramite il sito come forzasilvio.it, che è il nostro mybarackobama.com. Quanti iscritti ci sono e quanti contate di mobilitarne? Allora, noi abbiamo attualmente 242.700 e rotte persone che si sono volontariamente registrate dentro Forza Silvio. E devo dire, mi sembra un grandissimo risultato per il nostro paese. Tra loro ci sono queste 2.000 persone che le ho detto poc'anzi. Il mio obiettivo sarebbe averne un centesimo mobilitato i propri spazi online rispetto a quelli che Slebi appunto ha detto pubblicamente, cioè i 700.000 volontari di Obama. Averne noi 7.000 online sarebbe un grande successo, ma i 242.000 liberamente ciascuno di essi, se lo vorrà, sono mobilitabili anche offline, nel senso che tra loro vengono coloro i quali faranno i rappresentanti di lista nei seggi fisici, vengono coloro che organizzano incontri fisici sul territorio, vengono coloro i quali ci danno suggerimenti, feedback per affinare la nostra comunicazione, la nostra campagna elettorale. E quindi, insomma, un bel ambaradan, direbbe qualcuno da questa parte. Grazie dunque ad Antonio Palmieri per questi chiarimenti, per essersi sottoposto a queste domande, e buona giornata. Buona giornata e ancora auguri a lei e a tutti quanti. E chiudiamo così questa puntata di Vota Antonio. Vi ricordo i nostri contatti: votaantonio@radio24.it, votaantonioR24 su Twitter e votaantonioR24 anche su Facebook. Trovate anche me su Twitter se volete, Simone Spetia. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Ci sentiamo la settimana prossima. Faremo una sorta di guida al voto. Italia!